Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salvadanaio, una buona giornata di borsa ed è proprio questo ciò di cui parliamo questa mattina. Mercati finanziari, lo sapete bene, un tema che costantemente a Salvadanaio tocchiamo perché ci piace analizzare ed è soprattutto in questo periodo necessario assolutamente farlo, quello che accade ai nostri investimenti. È stata una settimana piuttosto interessante per quello che riguarda la borsa e a quanto pare c'è tutta l'intenzione di chiuderla in maniera altrettanto positiva. Il quadro di questa mattina è il seguente: Parigi sta guadagnando 2 punti, Francoforte guadagna il 2,34%, Londra guadagna l'1,42%, l'S&P MIB a Piazza Affari più 2,19%, il MIB del più 2%, nessuna banca fra le 19 sottoposte allo stress test e a rischio insolvenza, lo hanno detto ieri il segretario al tesoro americano Timothy Geithner e il presidente della banca centrale americana Ben Bernanke, anche se la banca centrale americana ha chiesto a 10 istituti di rafforzare il proprio capitale per un totale di 75 miliardi di dollari, 9 istituti sono invece stati promossi. Ecco, magari tutte queste indicazioni a molti dei nostri ascoltatori saranno incomprensibili, di fatto sono notizie che sono state accolte molto positivamente, come vi dicevo, dal mercato. Noi questa mattina abbiamo chiamato degli ospiti per aiutarci ad interpretare queste indicazioni, ma non solo queste, perché gli investitori stanno festeggiando sì questi dati, ma guardano anche avanti e qualcuno sembra pronto a scommettere che già a fine anno si registreranno segnali di ripresa economica, come lo stesso numero uno della Banca Centrale Americana Bernanke ha indicato nei giorni scorsi. D'altra parte sono anche però consapevoli che la crisi si farà sentire sul mercato del lavoro, perché in genere è un indicatore questo che reagisce in ritardo rispetto al ciclo economico. Proprio oggi verranno pubblicati i numeri sul mercato del lavoro americano e gli analisti si attendono che nel mese di aprile siano andati distrutti 600.000 posti di lavoro contro i 663.000 di marzo. Questi sono, come dire, i fatti di oggi, su cui commenteremo oggi, che commenteremo oggi naturalmente, ma questa settimana l'attesa del mercato si è sì concentrata prevalentemente sui risultati del monitoraggio sulle banche americane, ma non solo, perché ieri c'è stata anche la riunione della Banca Centrale Europea, ne abbiamo parlato anche a Salvadanaio di ieri, c'è stato il taglio dei tassi di interesse da parte della BCE, tassi che nell'eurozona adesso sono all'1% e presumibilmente potranno abbassarsi ancora, ma la Banca Centrale Europea ieri ha fatto di più, ha varato delle misure anti-recessione che sono un po' complicate. Magari stamattina spiegheremo anche quelle. Abbiamo anche avuto una settimana molto interessante per una grande azienda di casa nostra, le grandi manovre internazionali di Fiat che hanno dato una scossa notevole ai titoli del settore automobilistico, anche questi al centro della crisi, come sapete, insieme a tutto il comparto bancario e finanziario. Insomma, in tutto questo la borsa continua ad andare avanti, forse a guardare oltre, continua a correre come ha cominciato a fare dall'inizio di marzo. E allora, cosa sta accadendo? Stamattina ne parleremo con Matteo Finelli, responsabile multibrand di Zenith SGR. Bentornato a Salvadanaio. Buongiorno a voi tutti. E benvenuto invece, perché per la prima volta con noi, a Francesco Tarabini Castellani, responsabile per le attività italiane di Vontobel. Io tra l'altro, non, come si può immaginare, non conosco esattamente la pronuncia svizzera. Dottor Tarabini Castellani, buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere intervenuto a Salvadanaio questa mattina. Ovviamente il tema di mercato so che vi appassiona molto, e allora molto, come sempre, c'è un invito ai nostri ascoltatori ad intervenire, a prenotare i propri interventi all'800240024 o a scriverci alle 349-238-6666. Dottor Tarabini, vuole aiutarmi lei ad inaugurare questa trasmissione? Ci aiuta a spiegare esattamente ai nostri ascoltatori che cos'è questa indagine che l'amministrazione americana e la Banca Centrale Americana hanno condotto sulle principali 19 banche statunitensi? In che cosa è consistito questo stress test intorno al quale c'erano grandi attese per i risultati che poi abbiamo visto sono stati tutto sommato giudicati positivamente dal mercato? Certamente. Magari iniziamo cercando un po' di spiegare così ufficialmente che cos'è questo stress test e poi, se vogliamo, possiamo un po' capire quali sono le finalità indirette a cui vuole arrivare l'amministrazione americana tramite questi test. La Fed insieme alla banca, al governo, hanno praticamente previsto che le banche, principali banche americane, i primi 19 gruppi che avevano ricevuto tra l'altro aiuti statali in seguito alla situazione della crisi. I famigerati fondi TARP. Esattamente, questi 700 miliardi che in realtà sono già stati pagati e sono entrati nelle banche, nei acquistando bilanci, proprietà esattamente delle banche, di verificare un po' qual è il grado di solvibilità e di rischio che questi istituti potrebbero trovarsi nel caso in cui i prossimi due anni la crisi proseguisse e addirittura si accentuasse. In particolare si parla di ipotesi di due anni di disoccupazione intorno e oltre il 10%, intorno al 9% per quest'anno e oltre al 10% per il prossimo anno, e diciamo un crollo dei prezzi delle case intorno al 22%. Con riferimento a questi parametri si è valutato quali società sarebbero in grado di affrontare senza bisogno di ulteriore ricapitalizzazione queste situazioni, ed è risultato, come ampiamente anticipato dalla Fed, che 10 istituti hanno bisogno di un ammontare di 74 miliardi. In realtà queste somme sono meglio delle aspettative ed erano già ampiamente state anticipate dall'amministrazione americana. Ecco, no, tra l'altro stavamo appunto, il tema è oggi anche capire come mai il mercato sta brindando in maniera così evidente a queste notizie, perché comunque i soldi necessari non è che siano esattamente delle noccioline, che siano trascurabili. Il tema è come reperiranno le banche che hanno bisogno di ricapitalizzarsi questo denaro. C'è la convinzione molto netta da parte degli istituti di credito interessati che comunque il mercato potrà fare la sua parte in questa fase. Dottor Tarabini, lei ci crede? Beh, sì, l'idea di base è quello appunto di dare fiducia e trasparenza al mercato, cioè il mondo oggi si chiede e tutti gli investitori e i risparmiatori si chiedono: sono solide le banche? Rischiamo ancora qualcosa a investire nelle banche? E l'America tramite questa manovra ha contribuito a dare un importante segnale di trasparenza, discriminando tra gli istituti appunto in cui è necessario ancora procedere a dei risanamenti e gli altri che possono ritenersi solidi e in questo senso possono iniziare a fare rientrare, a ripagare il pesante debito concesso dallo Stato. Il ricorso verrà nei confronti del mercato, siamo abbastanza confidenti che col sostegno e il supporto della Fed, tramite questi segnali che stanno mandando, la risposta sarà tutto sommato riteniamo positiva. Tra l'altro, sempre per continuare ad essere piuttosto chiari con i nostri ascoltatori, quando diciamo c'è la convinzione diffusa che il mercato farà la sua parte, che comunque facendo ricorso al mercato le banche potranno continuare a ricapitalizzarsi, continueranno ad emettere, dottor Tarabini, obbligazioni che andranno ad investitori istituzionali, andranno al pubblico indistinto, come funziona una ricapitalizzazione, tra l'altro in una fase così delicata? Qual è almeno, come dire, la sensazione che avete, come potrà funzionare? Beh sì, in realtà abbiamo visto che banche hanno già iniziato, come la Wells Fargo ha lanciato un aumento di capitale di 6 miliardi, la Morgan Stanley ha annunciato un aumento di 5 miliardi di capitale proprio in azioni ordinarie, quindi si tratta di un aumento di capitale che verrà sottoscritto dal pubblico e da investitori anche istituzionali. Matteo Finelli, non è che mi sono dimenticata di lei, ho voluto così far esaurire a Tarabini, non esaurire almeno per questa prima parte, il versante internazionale, perché con lei mi interessa invece verificare un po' la reazione del mercato domestico rispetto a queste notizie che sono arrivate dagli Stati Uniti. Banco Popolare stamattina più 7, Unicredit più 5, la Popolare di Milano più 4, Banca Monte dei Paschi più 3,57, Mediobanca più 3,30, Mediolanum più 2,62, UbiBanca più 2,41%, che il mercato bancario domestico fosse in condizioni di salute decisamente migliori rispetto a tutto il resto del panorama internazionale, lo sapevamo già. Questo effetto di questa mattina, lei come lo giudica? Un po' eccessivo, un'euforia esagerata? Ma secondo me bisogna contestualizzarlo nel momento in cui ci troviamo. Devo ricordarci che allo stesso modo anche la fase di discesa dei corsi dei titoli azionari italiani bancari non era probabilmente corretta e probabilmente correlata a quello che era il rischio che si andava a correre. Dobbiamo ricordarci che di alcuni dei titoli di cui parliamo hanno messo a segno dai minimi rialzi di oltre il 100-200%, in alcuni casi anche oltre. Evidentemente la borsa, come sempre, sconti in anticipo ha degli eccessi, quindi c'era un eccesso di pessimismo. In questo momento, diciamo, trovare una correlazione diretta tra i risultati degli stress test statunitensi con i corsi dei titoli azionari europei non è particolarmente diretta questa correlazione. Indubbiamente è il clima in cui ci si trova. La domanda è proprio questa, sostanzialmente: come la Fed e il governo americano stanno sostanzialmente iniettando fiducia per allontanare quello che era un baratro che non dobbiamo dimenticarci che 7-8 settimane fa ci si stava schiudendo davanti. Vi siete un po' spaventati gli inizi di marzo? Ma indubbiamente era un eccesso, probabilmente un eccesso dei corsi, ma la costanza della discesa, la profondità, mai la continuità, sperimentato prima, quindi forse anche questo, anche questo sicuramente è stato, soprattutto quello che secondo me è singolare in questo caso, che essendo proprio una crisi del sistema finanziario è una crisi completamente diversa. Cioè abbiamo assistito a delle crisi precedentemente, ma mai così profonde e così diciamo radicate nel sistema finanziario, che è proprio quello che tiene in piedi i mercati. Quindi sostanzialmente si è corso il rischio che ci fosse un effetto avvitamento. In questa fase, probabilmente allontanandosi questo spettro del baratro, probabilmente c'è dal nostro punto di vista forse un eccesso di entusiasmo. Probabilmente è proprio questo quello che bisognerebbe riuscire a capire di quello che stanno cercando di fare gli organi, diciamo le banche centrali. Giustamente cercano di allontanare il baratro, di allontanare lo spettro di quello che sembrava essere la fine del capitalismo. In questo momento stanno iniettando con metodi non particolarmente convenzionali, infatti, o a cui non avevamo assistito in precedenza, una fiducia che è corretta da un certo punto di vista, perché bisogna sostenere, allontanare il rischio del baratro. Non bisogna, secondo me, illudere il mercato che i dati macroeconomici a cui andremo a assistere nei prossimi 3, 6, 12 mesi saranno dei particolari segni di risveglio. Quando ha cominciato a dire 3, 6, 12, dico non dirà anni adesso, perché no, a questo punto mi spaventavo anch'io. Però insomma sarà ancora un anno difficile. Sarà un anno difficile perché l'economia reale non ha ancora digerito tutte le notizie. Probabilmente, secondo me, da un certo punto di vista, su una parte dell'economia reale non abbiamo ancora neanche visto i minimi, il punto minimo di pessimismo, sicuramente, o massimo di pessimismo in realtà. Bisogna capire come si trasmetterà. Indubbiamente sappiamo che i corsi di borsa anticipano sempre, quindi hanno anticipato, auguriamoci, infatti, i minimi a cui abbiamo assistito, quindi probabilmente l'allontanamento dei minimi è salutare. Quando pensiamo non ai singoli titoli o al settore bancario, ma che gli indici, in particolare per esempio pensiamo a quello italiano, dal minimo hanno messo a segno un rialzo di oltre il 50%, probabilmente c'è stato in 7-8 settimane, forse questo è un po' eccessivo rispetto al contesto macroeconomico. È la crisi degli eccessi, d'altronde l'abbiamo capito molto bene, e probabilmente anche questo andamento recente dei mercati nasconde ancora qualcosa che non è ben chiaro, non si capisce molto bene ancora che cosa un rialzo così vistoso possa già incorporare e prevedere. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive: se la borsa continua a salire con questo ritmo usciremo dalla crisi, in men che non si dica, molto ottimista, e invece comincio a sentire anche i nostri ascoltatori. Peraltro, a proposito delle banche, c'è anche un'intervista da segnalare di questa mattina a Canale 5 di Lorenzo Binismaghi, che è il membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Poi magari ve la leggo perché è interessante, riguarda sempre la preoccupazione per il settore bancario, che dice lui non è più quella dei titoli tossici, ma a questo punto dei crediti in sofferenza verso le imprese. Qui chiaramente il trasferimento all'economia reale della crisi finanziaria, che è ancora una piaga assolutamente aperta. Però vorrei sentire Roberto da Genova, che saluto, ringrazio, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei, Roberto. Sì. Volevo fare una domanda abbastanza semplice. Volevo sapere se questi rialzi qua, che c'è stato in questo mese e mezzo qua, includeva già la ripartenza economica o no? O era solo per i dividendi che vanno staccati verso maggio e giugno? Tema che stavamo affrontando proprio adesso con Matteo Finelli, Roberto. Però allora sentiamo anche Tarabini Castellani di Fontobel, che ricordo una grande banca svizzera privata. Dottor Tarabini, insomma, fino a che punto il rialzo degli ultimi due mesi, a questo punto, perché oggi è l'8 maggio, incorpora una ripresa economica? Perché non sono ancora molto tutti convinti di potersi esporre in questa direzione, insomma. Assolutamente. Noi abbiamo, tra l'altro, un mese fa iniziato a ricomprare un po' azioni. Come ben sappiamo, come ha già detto lei, la borsa anticipa un po' i fondamentali, quindi l'economia reale. Noi crediamo di essere in procinto di toccare il fondo, forse di avere già un po' toccato il fondo per quello che riguarda l'economia reale, e in questo senso la borsa ha già anticipato un miglioramento del quadro economico complessivo. Come la borsa purtroppo spesso fa, questo rimbalzo è stato importante, è stato estremamente rapido ed elevato, e di conseguenza direi che ci si può si può assumere un atteggiamento cauto per le prossime settimane, nel periodo a venire. Complessivamente riteniamo che il quadro economico quindi sia migliorato e che un investimento azionario possa avere un suo senso. I dubbi poi saranno in una seconda fase, e quindi una volta, diciamo, digeriti gli effetti di questi grossi sforzi governativi mondiali se l'economia riuscirà a ripartire, generando quindi una crescita reale e solida. Nel breve termine noi manteniamo un atteggiamento un po' cauto, con particolare riferimento a qualche settore, tra l'altro come quello dei finanziari, ma complessivamente pensiamo che in una prospettiva comunque a medio termine possa far senso rientrare sull'azionario. Ecco, tra l'altro lei ci diceva poco fa, abbiamo cominciato a ricomprare azioni, poi naturalmente si dovrà esporre anche un po' di più rispetto a dove avete cercato delle occasioni di acquisto. Stavo guardando adesso su Sky TG24 un collegamento da Pomigliano d'Arco, perché c'è preoccupazione fra gli operai Fiat per questa ipotesi di cui si sta parlando, di chiusura di due stabilimenti italiani in virtù dell'operazione in Germania, dell'operazione Opel. Matteo Finelli, in ogni caso queste manovre internazionali del lingotto hanno suscitato sicuramente un grande clamore nel nostro paese, hanno fatto bene al titolo, hanno fatto bene un po' a tutto il settore automobilistico europeo, che forse aveva bisogno di questa iniezione di fiducia. Il risico del settore automobilistico come lo sta valutando adesso anche Porsche e Volkswagen? Ma sicuramente dobbiamo cercare degli spunti positivi. Quello che è successo sui mercati probabilmente ha creato, ai livelli attuali dei corsi, in tanti settori delle occasioni d'acquisto e delle occasioni di operazioni straordinarie. Chiaramente il settore automobilistico, che è un settore caratterizzato evidentemente da un'eccessiva diversificazione, dall'esistenza quasi di un centinaio di marche, e ognuna di queste marche con centinaia di modelli, probabilmente ha creato un'eccessiva diversificazione, un eccessivo spezzettamento del mercato. È sano e probabilmente ha auspicabile che da questa crisi si esca con non più questa frammentazione, ma che si riescano a creare 4, 5, al massimo 10 gruppi che nel mondo siano produttori di automobili, per creare delle economie di scala e per creare anche un servizio migliore all'utente finale. Indubbiamente la Fiat, che era stata, anche lei era avuto, dobbiamo ricordarci, dai massimi fatti segnare circa 24 mesi fa, ha messo a segno una perdita di quasi il 90%, perché fece segnare un massimo in zona 24 e dei minimi in area 3,30. Sicuramente è riuscita, proprio perché comunque al suo interno era più sana di altre realtà presenti sul mercato, di mettere a segno questa operazione. Mm-hmm. Sicuramente l'operazione Chrysler e l'ipotesi, diciamo, dell'accorpamento con Opel e quindi, diciamo, con le branche europee del gruppo General Motors sono una grande occasione d'acquisto. Quello che secondo me va un po' analizzato è quello che il titolo tanto ha corso sui rumors di questa operazione, è passato dai 3,30 fino agli 8 euro, arrivata la conferma della notizia, come spesso avviene in borsa, i corsi del titolo sono un po' bloccati. Arrestati. Si è un po' imballato in quest'area 7,5, 8, 8,20, e dobbiamo capire quindi quanto il mercato sicuramente ha premiato Fiat per questa operazione, quanto crederà nella capacità, in realtà, di cui abbiamo avuto degli ottimi segnali da parte di Marchionne e del management di Fiat, di poi riuscire a creare, diciamo, delle sinergie e, diciamo, anche a tutela dei dipendenti, dei lavoratori, quanto riuscirà sostanzialmente a creare da questa operazione, che indubbiamente è molto affascinante, con delle ottime prospettive, del valore aggiunto per il mercato. Una decisione sul futuro della Opel dovrebbe essere presa entro la fine di maggio, e quanto si legge in un comunicato diffuso dal governo dell'Assia dopo l'incontro tenuto questa mattina fra il governatore Roland Koch e l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Fiat intanto oggi a Piazza Affari, lo dicevamo, più 2,68% in un mercato che continua ad allungare il passo, S&P MIB più 2,37. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, che questa mattina, come ci capita spesso di fare il venerdì, alla fine della settimana finanziaria, anche se ancora abbiamo tutto il pomeriggio, tutta la seduta di Wall Street, così facciamo un po' un bilancio delle notizie finanziarie della settimana. È stata una settimana piuttosto intensa: lo stress test delle banche americane, la riduzione dei tassi di interesse nell'eurozona, le grandi operazioni di Fiat. Allora, proprio di tassi di interesse parliamo: tassi all'1%, acquisto di 60 miliardi di euro di obbligazioni bancarie, liquidità illimitata per la Banca Europea degli Investimenti per movimentare altri 40 miliardi di euro destinati ad infrastrutture. Queste le misure anticrisi varate ieri dalla Banca Centrale Europea. Per quanto riguarda il costo del denaro, il nuovo taglio della BCE ha portato i tassi di interesse al nuovo minimo storico dell'1%, livello che, a fronte del forte rallentamento economico in atto, potrebbe non essere il minimo assoluto. Sentiamo allora il commento del presidente dell'Eurotower, Jean-Claude Trichet. On the basis of its regular economic and monetary analysis, sulla base delle abituali analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di ridurre i tassi di interesse di ulteriori 25 punti, portandoli all'1%. Consideriamo che i tassi siano appropriati alla luce di tutte le informazioni disponibili. Oggi non abbiamo deciso che l'attuale livello del costo del denaro è il minimo possibile e che non potremo mai superare questa soglia. Allo stesso tempo, posso affermare che attualmente consideriamo appropriati i tassi di interesse, sempre tenendo conto delle informazioni e delle analisi a nostra disposizione. Non ho ricordato il numero verde, ma lo conoscete molto bene per intervenire, 800 24 00 24. Francesco Tarabini Castellani, responsabile per l'Italia della banca privata svizzera Vontobel, questa mattina con noi, insieme a Matteo Finelli, responsabile multibrand di Zenith SGR. Dottor Tarabini, tassi all'1%, ieri dicevamo con un suo collega la reazione del mercato è stata piuttosto, come dire, tiepida intorno all'evento BCE, perché una riduzione all'1% il mercato se lo attendeva. A questo punto, fin dove potrà spingersi l'organismo di Francoforte? Di che cos'altro c'è bisogno, secondo le vostre anche osservazioni? Quanto ancora deve portare in giù i tassi? Il taglio appunto tra l'altro era ampiamente atteso dal mercato, di conseguenza si è rispettato un po' quello che erano le aspettative. Con riferimento alla misura dei 60 miliardi, che sembra una grossa cifra in senso assoluto, dobbiamo però prendere in considerazione che più o meno corrisponde a meno dell'1% del prodotto interno lordo. Se confrontiamo questo numero con le manovre messe in atto dalle banche centrali in America o in Giappone o anche in Inghilterra, sono entità proporzionalmente molto maggiori, parliamo di 5-10%, quindi in questo senso senz'altro è la prima misura, diciamo, a sostegno, perché verranno iniettate sostanzialmente tramite acquisto di titoli liquidità nel sistema bancario, però relativamente non è così ingente come in altri paesi. No, la peculiarità di questa operazione, che è del tutto non convenzionale per la BCE, poi magari ci torneremo, ma insomma i tassi quanto si abbasseranno ancora e quanto si manterranno su questi livelli a vostro avviso, secondo le vostre proiezioni? Perché lo ribadisco, l'ho fatto più volte, abbiamo capito che fare proiezioni in una crisi come questa, che abbiano, come dire, un'ottica temporale media, è assolutamente impossibile. Dottor Tarabini. È estremamente difficile, lo stesso Trichet addirittura ha detto che non ha escluso ulteriori ribassi. Noi riteniamo che bene o male siamo arrivati verso la fine del ciclo di ribassi e di conseguenza vi sia ancora come investitore l'opportunità di trarre profitto da un investimento obbligazionario, però è sempre più importante avere un atteggiamento di cautela, perché ricordiamoci che i tassi poi anche a medio e lungo termine, una volta che hanno finito di scendere, inizieranno a salire, di conseguenza l'investimento obbligazionario comincia ad essere anche un po' così sofferente, da prendere un po' con attenzione. Allora, a proposito di tassi bassi, c'è una domanda di Davide da Firenze. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e ai suoi ospiti. Ci dica tutto. Desideravo proprio porre una domanda relativamente ai tassi di interesse. Sì. In riferimento a queste forti emissioni di liquidità che ci sono state sul sistema e questi abbassamenti repentini dei tassi, probabilmente ci potremmo aspettare di qui a non so quanto tempo un ritorno di inflazione, probabilmente che ci potrebbe cogliere anche impreparati. Fino ad oggi abbiamo colto qualche opportunità sul mercato obbligazionario con tasso fisso. Quando, secondo i suoi ospiti, brevi anche questo, però insomma prima o poi tutta questa gran massa di liquidità dal mercato dovrà essere riassorbita, lo diciamo tutti i giorni, e l'unica leva sulla quale si potrà agire sarà quella dei tassi di interesse. Allora Matteo Finelli, come giudica insomma la considerazione del nostro ascoltatore? Abbiamo visto la fiammata dell'inflazione a luglio scorso determinata da tutt'altro fattore, c'era il petrolio che correva, esatto, ma questa volta siamo in circostanze diverse. Sicuramente le banche centrali hanno cercato sostanzialmente per adesso di tamponare il rischio deflazione, quindi queste continuità, i ribassi dei tassi sono serviti per cercare di dare fiato all'economia. Bisogna, secondo me, prima di tutto ricordarsi che poi c'è da fare un distinguo tra quelli che sono i tassi ufficiali e quelli che sono i tassi di mercato. L'intervento sul mercato di riacquisto non sono assolutamente allineati a quelli che sono i tassi di mercato. Stesso discorso vale quindi, siccome bisogna fare un po' di distinguo all'interno del mercato obbligazionario. In un'ottica di medio periodo, quindi penso oltre i 12 mesi, probabilmente gli strumenti variabili, cioè legati al rialzo dell'inflazione, potrebbero essere una bella scommessa. Tatticamente, su alcuni profili di portafoglio, secondo me potrebbe essere già un'idea interessante. Chiaramente dobbiamo sapere che è un po' una scommessa, nel senso, allo stato attuale delle cose, diciamo, fiammate di inflattive, in ragione del fatto che sappiamo che le materie prime, in particolare il petrolio, si aggira intorno ai $55-60, che potrebbe essere una quotazione corretta, diciamo, un trading range, una fascia di oscillazione tra i 50 e i 60, un po' più ampia, tra 40 e 60 potrebbe essere una fascia corretta, e quindi, e allo stesso modo, ripresa della domanda o comunque fattori che possono far riaffiorare l'inflazione nel breve non se ne hanno. Indubbiamente però, come si diceva correttamente, a medio periodo, quindi diciamo spostando l'orizzonte temporale un po' più di lungo, quanto vale adesso un medio periodo, visto che l'ottica temporale delle cose è radicalmente cambiata con questa crisi? Direi che se pensiamo, come ci auguriamo, che il peggio sia passato ma che la ripresa non sia così imminente, direi che su oltre i 12 mesi potrebbe un anno, quindi sì. E quantomeno, secondo me, bisogna fare anche un ragionamento del rischio che si corre, cioè diciamo a rimanere sul tasso fisso i ritorni che si hanno, in particolare se si vuole stare su emissioni governative di ottimo standing, i ritorni sono veramente bassi, netti per l'investitore, quindi probabilmente con un po' di incrementando un po' la propensione al rischio e giocarsi gradatamente, quindi un incremento pian piano nei propri portafogli di strumenti più legati al tasso variabile potrebbe essere una bella idea. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Parlavamo prima del pacchetto anticrisi varato dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, non è l'equivalente del massiccio programma di allentamento quantitativo che è stato lanciato, invece varato nei mesi scorsi dalla Banca Centrale Americana, ma comunque contiene parecchie novità, è incardinato su tre pilastri fondamentali: il sostegno alla Banca Europea degli Investimenti, l'acquisto di covered bond, adesso scopriremo anche cosa si nasconde dietro a questo termine, che nelle stime metteranno in moto congiuntamente oltre 100 miliardi di euro, e l'allungamento delle scadenze dei prestiti alle banche commerciali, quindi anche la Banca Centrale Europea rinegozia i prestiti alle banche, esattamente come la banca lo fa con noi. Sentiamo però quanto ha detto su questi punti ieri ancora Jean-Claude Trichet. The Governing Council has decided in principle. Il Consiglio Direttivo ha deciso che si procederà con l'acquisto di covered bond emessi nell'area euro. I dettagli riguardo la modalità saranno diffusi dopo la prossima riunione a giugno. Inoltre, abbiamo deciso che la Banca Europea degli Investimenti diventerà la controparte nelle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Dal prossimo 8 luglio avrà accesso alle operazioni di rifinanziamento come le banche commerciali. In merito alla decisione di riacquistare covered bond, ripeto che i dettagli verranno forniti in occasione della prossima riunione a giugno. Posso però affermare che pensiamo di riacquistare debito per un ammontare intorno ai 60 miliardi di euro. E allora, come avete sentito prima della nostra pausa, stavamo parlando di questa misura annunciata ieri dalla Banca Centrale Europea come maxi stimolo all'economia. Oltre al taglio dei tassi all'1%, la Banca Centrale ha fatto sapere che comprerà titoli a basso rischio per 60 miliardi di euro, compra praticamente questi covered bond, delle obbligazioni private che sono tipicamente europee, la definizione data anche stamattina dal Sole 24 Ore, esportate negli Stati Uniti da meno di un anno, come caratteristica hanno quella di avere come garanzia un'attività economica sottostante o un insieme di attività economiche che generano reddito, mutui immobiliari o prestiti pubblici. Dottor Tarabini di Vontobel, l'Italia non ne ha emesse tante, per fortuna la Svizzera neanche, mi sembra di no dalla ricostruzione che fa il Sole 24 Ore, la Germania ne ha molte però emesse. Qualcuno ha avuto il dubbio che questo intervento della Banca Centrale Europea sia andato proprio in direzione tedesca molto esplicitamente. Insomma, tutto sommato però serve al mercato un intervento come questo, anche se abbiamo prima spiegato anche qual è la proporzione dell'intervento rispetto al prodotto interno lordo dell'Eurozona, che certo, è minimo. Certo, assolutamente sì, forse fa riferimento anche un po' alle fund brief, in realtà poi si tratta anche di cartolarizzazione, diciamo, quindi di titoli che fanno riferimento alla fine a mutui, quindi immobiliari, che possono essere stati anche emessi alla fine da enti privati che però fanno riferimento o hanno una garanzia anche indiretta da enti pubblici, quindi se vogliamo alla fine dello Stato. È possibile che questi strumenti, dottor Tarabini, siano in mano anche a piccoli risparmiatori? Cioè è possibile che mi possa trovare in mano un covered bond emesso dalla Germania? Diciamo che facendo una sottoscrizione di questo tipo l'intermediario finanziario dovrebbe spiegare quali sono i rischi di riferimento del titolo che si va a comprare. Diciamo che comunque nella recente proprio sell-off di tutto quello che era rischio, di tutto quello che non era titolo di Stato puro, i titoli, queste caratterizzazioni hanno sofferto in particolare, se vogliamo in parte anche ingiustamente, perché si tratta comunque di titoli con una certa garanzia di fondo. Hanno sofferto anche nei riferimenti, se vogliamo, di emissioni obbligazionarie bancarie di banche con problemi in Europa, ma anche in America, in particolare in Europa, però banche che erano garantite dallo Stato. Quindi il mercato, intervenendo in questo modo, praticamente la banca centrale va a ripristinare una situazione di equilibrio, se vogliamo anche di equità, di verso uno strumento che aveva, se vogliamo anche un po' così eccessivamente, era stato penalizzato dalla situazione generale, insomma, certo. Allora, sentirei Giuseppe da Torino adesso invece. Giuseppe, benvenuto. Grazie. Buongiorno. A lei, buongiorno. La mia domanda converte sul fatto che se ci aspettiamo che ritorni l'inflazione nel medio lungo termine, se ci si può immaginare che un rialzo delle materie prime, in primis dell'oro. Sì. Che facciamo anche notare che mentre altre materie prime, tipo il grano, il petrolio, eccetera, dai massimi sono dimezzati, se non di più, il petrolio è passato da 150 a 50. 50, no? Quindi, sì. Mentre l'oro è passato da 1000 a 900 dollari, quindi ha perso solo il 10%. È il bene rifugio per eccellenza. Per eccellenza. E aspettandoci un'inflazione, essendo poi il bene rifugio per eccellenza che si è anche comportato bene in questa crisi, ha perso solo il 10%, diciamo, no? Ci si può immaginare che possa portarsi dietro il prezzo delle materie prime, cioè praticamente avere esattamente la situazione opposta rispetto all'anno scorso, quando l'inflazione era invece generata dalle materie prime che correvano. Matteo Finelli, la passione all'andamento dei prezzi delle materie prime? Ma sicuramente è uno degli aspetti che va monitorati all'interno di un, diciamo, degli indicatori dell'andamento dell'economia globale. Stento a credere che in realtà l'oro possa essere preso come indicatore, cioè indubbiamente è uno degli indicatori da seguire. Mi sembra difficile pensare che però le materie prime tornino a correre rapidamente. In particolare abbiamo visto che alcune materie prime, sappiamo che hanno avuto degli eccessivi ribassi, in particolare in ragione del fatto che alcune, proprio diciamo legate alla nutrizione nei paesi emergenti, in realtà probabilmente torneranno a correre. La domanda esplosiva di quelle aree. La domanda, certo. Se pensiamo alla domanda cinese, alla domanda indiana o anche del Latin America, sicuramente si torneranno a salire. Sicuramente l'idea di ritorno di inflazione sui mercati in questo momento non è particolarmente correlata esclusivamente all'andamento delle materie prime. No. È più proprio un complesso di fattori in cui sostanzialmente proprio gli interventi, come abbiamo detto, non convenzionali. Probabilmente il timore che si può avere in questo momento è che, non essendo convenzionali, non avendoli noi testati in precedenza, non sappiamo quali potrebbero essere poi i risultati sull'economia reale. Sicuramente quello che secondo me si può percepire è che le banche centrali, cosa molto positiva, stanno concertando insieme gli interventi, quindi abbiamo visto che sostanzialmente c'è univocità di direzione e anche univocità di messaggio. Quindi il messaggio che si sta dando è che comunque tutto quello che viene fatto è per allontanare lo spettro della fine del mondo, quindi sostanzialmente da dove si intervenga sui tassi, sui riacquisti di alcuni comparti obbligazionari particolarmente penalizzati, è per far percepire al sistema mondiale che comunque tutto sta rientrando nella similnormalità. Tra qualche anno lo pagheremo, perché con questi debiti pubblici, insomma, che in qualche maniera dovranno riversarsi sulle tasche dei contribuenti, non so come, poi probabilmente sarà un altro problema che affronteremo fra qualche anno, Finelli, però certo allontaniamo un baratro adesso terribile, però andiamo incontro a qualche altro problema fra qualche anno. Stiamo posticipando dei problemi, ma stiamo cercando, secondo me, di dare priorità a quello che era il problema principale, cioè questo timore che abbiamo avuto nelle prime settimane dell'anno, nei primi 2-3 mesi dell'anno, che veramente il sistema si stesse avvitando, che non ci fossero più, in particolare su determinati strumenti di liquidità, e ci fosse, come si diceva prima, solo venditori. E questi, come sappiamo, in un mercato, quando la domanda scompare e l'offerta è 10, 20, 50 volte maggiore della domanda, c'è gente che, pur di capitalizzare, di portare a casa, vende a dei prezzi che non sono assolutamente di liberare il portafoglio, insomma, da tutte le zavorre. Sì. Allora, abbiamo cominciato a ricomprare azioni, ci diceva nella prima parte di Salvadanaio Francesco Tarabini Castellani di Vontobel. Che opportunità di mercato avete colto in questo periodo? Ecco, perfetto. Prima, se mi consente, ancora due parole giusto sull'inflazione, perché sono concorde col collega. Allora, guardi, faccio una cosa, se mi permette, perché c'è una domanda di un ascoltatore, Carlo da Milano, che era proprio su questo, gliela faccio fare così poi le faccio completare in maniera esaustiva tutto il discorso. Carlo, voleva intervenire sull'inflazione, lei, mi sembra. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Carlo da Milano. Sì. Senta, la mia domanda è molto semplice. Una, si parla di inflazione, la si vagheggia, però nessuno ne dice niente, c'è quasi un timore reverenziale a parlare di inflazione. Io volevo chiedere al suo ospite quando pensa che questa inflazione avverrà, nel senso medio termine, lungo termine, un anno, due anni. No, ma l'abbiamo magari detto proprio poco fa, Carlo, ho fatto proprio esprimere a Matteo Finelli un, come dire, un dato temporale molto preciso, nel medio termine torneremo a vedere i prezzi in crescita, che medio termine si dà, 12 mesi mi ha detto, non aveva sentito, poi magari sentiamo anche Tarabini. Carlo? Sì, avevo sentito questo, però avevo sentito anche prima che secondo lui il medio termine è dopo i 12 mesi, dopo i 12 mesi è piuttosto vago, da 12 a quanto? A un anno, a tre anni, a quattro anni? Prima domanda. Seconda domanda, la Banca Europea acquista i bond, sì. Questi bond però sembra che siano acquistati solo dalle banche tedesche e dalle banche spagnole, sì. Perché le banche italiane non ne vogliono, perché la Banca Europea Non è questo il meccanismo, non è questo il meccanismo. Ce ne sono 8 miliardi emessi dall'Italia e sono delle emissioni della Cassa Depositi e Prestiti, non sono emissioni bancarie, quindi sono degli strumenti abbastanza particolari. A noi, a quanto pare, tutto questo fenomeno anche di riacquisto della BCE non dovrebbe interessare, Carlo. Però volevo esprimere qualche considerazione in più sulla questione dell'inflazione. Allora, visto che Tarabini Castellani aveva appunto iniziato il suo discorso su questo, lei ci può dare un quadro temporale un po' più dettagliato, perché gli ascoltatori non sono soddisfatti delle indicazioni che stiamo dando. Volentieri, cerco di dare un po' una visione di quella che è la nostra visione. In questa situazione veramente i problemi sul tavolo sono quelli di far ricrescere l'economia. Ricordiamoci che in America abbiamo assistito alla grossa crisi che ha coinvolto in primis le banche di investimento, che hanno sofferto e diciamo in questo senso hanno realizzato le loro perdite, anche perché erano quotate mark to mark, quindi ad oggi si è spostato il discorso sulle banche commerciali, quindi quelle banche attive nei crediti per esempio al consumo e nei crediti commerciali, con appunto la creazione di questi stress test. Il problema in America è che il Tesoro e la Fed stanno cercando di far ripartire l'economia, qualcuno dice di reinflazionare l'economia, quindi se vi riusciranno sarà un risultato in questo senso paradossalmente positivo. Il problema è che però va fatto gradualmente, qualora anche si dovesse andare verso questa direzione, non è che si può far tornare la fiammata inflattiva in sei mesi. No, il rischio attuale noi riteniamo che possa essere adesso scongiurato quello di deflazione. Noi crediamo che i rischi inflattivi si verificheranno ma in una fase abbastanza lontana, eventualmente anche non uno ma forse due o tre anni, perché come dicevo prima, ora siamo positivi su un recupero dell'economia e delle borse. In una seconda fase ci sarà da chiederci, esauriti questi stimoli forzati da parte dei governi mondiali, riuscirà l'economia a ripartire. Ricordiamoci che parliamo di deleveraggio della situazione degli investitori, dei consumatori americani, che costituiscono uno dei motori principali della crescita mondiale. Quindi ci sarà da chiedersi verso quali modelli ci allineeremo. Senz'altro sarà interessante parlare di energia e materie prime, perché ricordiamoci che uno dei pochi motori che ci si aspetta così continui a andare a incrementare giri è quello della Cina, e la Cina sappiamo che comincia a produrre sempre più in casa, però materie prime e energia bisogna anche di importarle esternamente. Quindi sono questi settori che ha comprato dal punto di vista azionario, Tarabini? Sì, per andare al concreto. Energetici e materiali sono due settori senz'altro interessanti. Si può anche andare a livello però tecnico su qualche ciclico che anticipa la ripresa, come potrebbe essere il tecnologico. Questo però ricordiamoci che un mercato, ecco, sulle banche le posso dire che stiamo comprando banche commerciali su mercati emergenti, su mercati tipo America e Europa siamo ancora abbastanza cauti, nel senso che poi i prezzi, ricordiamoci, hanno fatto un grosso rally, quindi a questi livelli forse benissimo. Noi stiamo comunque su grosse società di elevata qualità e in questo senso rimaniamo ancora su consumer staples. Benissimo, devo salutarla, ma la ringrazio per la sua ricetta di investimento data proprio sul rush finale. Grazie a Francesco Tarabini Castellani di Vontobel, a Matteo Finelli, a cui invece non riesco a far dire niente purtroppo, ma Matteo tornerà sicuramente da noi molto presto. Salva Danaio invece torna lunedì. Buon fine settimana a tutti.